un'altra Europa. Come ogni sabato su Radio 24 per raccontarvi l'Europa delle storie, l'Europa delle opportunità, l'Europa delle possibilità. Oggi l'altra Europa, l'Europa che sarà la Turchia funestata da questo attentato. Radio 24 vi sta aggiornando durante i GR di quello che sta accadendo. Noi come sempre cercheremo oggi di portare anche altre sfumature di questa Europa che tanto ci fa arrabbiare, però anche tanto ci offre. E come sempre le coordinate per seguirci virtualmente: euronetplus.eu è il portale del network al quale apparteniamo, oppure le nostre bacheche digitali euronetplus R24 o i miei account chiocciola Federico Taddia su Twitter e su Facebook, che oggi vi invito a utilizzare anche in diretta per mandare i vostri messaggi insieme agli SMS, se volete, al 349-238-6666, perché parleremo di Erasmus in particolare domani ad Expo, una giornata particolare, una sorta di incontro, di abbraccio tra i volontari del Servizio Volontario Europeo e gli Erasmus in questo Erasmus Voluntary Day, una lunga giornata di incontro, di confronto, organizzata da quelli che sono state un po' le anime dei volontari in questi sei mesi di Expo. E quindi cito Erasmus Student Network, CSV, l'Agenzia Nazionale Giovani e l'Unione Europea, che con il proprio padiglione ha aperto le porte a tantissimi volontari europei. Visto che gli Erasmus saranno i grandi protagonisti, con me in studio oggi ho il piacere di avere due studentesse che stanno vivendo il loro Erasmus qui a Milano, Matilde e Clementine. Ciao Matilde. Ciao. Ciao Clementine. Ciao. Allora, amiche dal liceo, vero Matilde? So. Sì. Ok, da dove venite? Bordeaux in Francia. Ok, guarda Matilde, avvicinati un po' al microfono. E siete studiati italiano da qualche anno? Sì, da 7 anni per me e 8 anni per lei. Uh-huh. E come mai avete scelto proprio Milano per il vostro Erasmus? Infatti abbiamo, per l'Erasmus dobbiamo fare 3 scelte e poi le nostre università scelgono per noi l'università che possiamo fare, e infatti è un po' a caso che sono venuta a Milano, ma non conoscevo per niente, quindi mi piace molto di scoprire questa città. Mm-hmm. Racconteremo la vostra storia, la vostra esperienza. Clementine, se ti chiedessi per ora, è proprio così, di riassumere per adesso l'Erasmus in una parola, quale parola sceglieresti? Una parola inglese, enjoy. Ok. Che per il momento non abbiamo avuto molto corsi, perché abbiamo iniziato i corsi solo da una settimana, quindi non abbiamo più. Quindi per adesso enjoy, sì. Però inizieranno le lezioni. Questo è l'Erasmus. Oggi aspettiamo anche i vostri racconti, le vostre esperienze, il vostro ricordo. 349-238-6666, se volete farlo via SMS oppure Twitter, l'hashtag è l'altra Europa. This is the moment. Every day for the rest of our lives. Time may rush us, hurt or love us, but on this day we have arrived. You're a winner, I'm a winner. This is all happening so fast. You're a winner. E apriamo questa puntata con una immagine, una vignetta cattiva, dura, sincera, ed è la vignetta che ha vinto quest'anno il premio una vignetta per l'Europa al Festival Internazionale di Ferrara, vignetta che ho già pubblicato sul mio profilo Twitter, vignetta firmata da Marilena Nardi, vignettista vincitrice appunto del concorso. Ciao Marilena, benvenuta all'Altra Europa. Salve, buongiorno a tutti. Hai raccontato l'Europa come se fosse una vecchia signora? Eh sì, è una vecchia Europa, è una vecchia dama che, come posso dire, la vignetta non ha testa, non ha parole. E però penso che l'espressione dell'Europa, che appunto fa la sdegnosa, fa la schizzinosa, fa la persona che appunto non vuole occuparsi dei problemi dei migranti, e sia appunto l'immagine più... Oddio, scusate, sono un po' emozionata. È un po' strano raccontare una vignetta. Infatti, alla radio, tra l'altro. Comunque, è una vecchia Europa che appunto è vestita a sera con un abito che dà l'idea appunto della mondanità, e tra le pieghe di questo abito, che ha lo stesso colore della bandiera dell'Europa, queste pieghe alla fine verso il basso si trasformano in onde e lì si possono vedere i migranti che non ce l'hanno fatta, i barconi rovesciati e questa Europa, appunto, dicevo, in maniera poco elegante si infila due dita nelle orecchie e distoglie lo sguardo, chiude gli occhi, non vuole ascoltare, non vuole occuparsi di quello che sta accadendo. È una vignetta che non lascia speranza questa Europa, non le dà una seconda possibilità. È una vignetta che avevo disegnato in aprile e veramente in quel periodo ci sono stati un sacco di morti in mare e questa Europa voleva veramente disinteressarsi del problema. Adesso forse le cose stanno un po' cambiando, ma solo perché i migranti stanno arrivando per terra anziché per mare, quindi in un modo o nell'altro deve farsi carico del destino di queste persone. Una vignetta per l'Europa di Marilena Nardi, il sito di Marilena che è marilenanardi.it. Vi ricordo, l'abbiamo appena pubblicata sul mio profilo Twitter e lunedì la troverete anche sul sito di Radio 24. Grazie Marilena, complimenti. Grazie a voi. Ciao, buon sabato. Buon sabato. Grazie, grazie. Ci fermiamo in Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europostit. Ancona, due mostre sull'Europa presso l'Università Politecnica. Diffondere la comprensione dell'Unione Europea e della sua cittadinanza. È l'obiettivo del Dipartimento Politiche Europee che con le due mostre itineranti, l'Italia in Europa, l'Europa in Italia, l'integrazione europea in 250 scatti e la cittadinanza in Europa dall'antichità ad oggi, promuove la conoscenza della storia comune del vecchio continente. Le due esposizioni saranno ad Ancona presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche fino al 15 ottobre, per poi fare tappa a Pozzuoli fino al 16 novembre e a Matera fino all'11 dicembre. Per tutte le informazioni, politicheeuropee.it. SMAU ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta l'altra Europa. Volontario europeo incontra l'Erasmus, tutti insieme per scoprire le opportunità che l'Europa offre. Questo è il cuore della giornata di domani, promossa a Dexpo. Matilde, Clementina, voi state vivendo l'Erasmus, state vivendo una delle opportunità più belle, più antiche, più vere, più giuste, più azzeccate dell'Europa in questi anni. Per voi l'Europa che cos'è? Clementina? Per me è uno scambio soprattutto per i giovani, perché siamo noi il futuro dell'Europa e quindi tocca a noi di fare di questa Europa una cosa vera e importante che ha un significato nel mondo. Prima dicevamo che questa vignetta appunto nascondeva la speranza per l'Europa, tu invece dici sì, noi è il contrario, possiamo cambiare le cose. Matilde, per te invece? Sì, io anche credo molto nell'Europa, perché se a prima vista è un'organizzazione politica complicatissima, noi vivendo l'Erasmus incontriamo non soltanto italiani ma giovani della nostra età di tutta Europa e vivendo tutti la stessa esperienza vediamo che ci sono possibilità per noi di viaggiare, di imparare in tutta Europa e questo è bellissimo. Insomma, la mobilità come valore aggiunto e la mobilità appunto è la cosa che verrà sottolineata nella giornata di domani. C'è con noi Giancarlo Carratti, vice commissario generale per la partecipazione dell'Unione Europea a Expo ed è a capo anche della task force dell'Unione Europea in Expo 2015. Buongiorno Carratti, benvenuto all'altra Europa. Buongiorno a tutti. Saranno oltre 1000 ragazzi domani. Come mai avete voluto questa giornata? Prima di tutto noi come Partito Europeo pensiamo che il mondo non lo ereditiamo dai nostri genitori, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli e dai futuri. Quindi noi abbiamo impostato tutto il nostro padiglione verso i giovani, quindi facendo un credito animato per l'innovazione un po' più giovani, anche avendo 850 volontari, la maggior parte del programma Erasmus, che sono venuti per 14 giorni da noi, e soprattutto perché sono i giovani che parlano i giovani, quindi la cosa ha funzionato e c'è stata un'energia e un entusiasmo straordinario. E ci chiedevamo proprio una settimana fa, insieme ad alcuni dei volontari del, del vostro padiglione, cosa rimarrà ai giovani di questo Erasmus. Vi siete dati una risposta voi? Ma noi come Unione Europea credo che gli rimarrà una, un'esperienza indimenticabile, perché un Expo succede ogni 5 anni e in Europa probabilmente ogni 15, quindi penso che un'esperienza di questo tipo, così ricca di esperienza, di energia, di conoscenza, ma anche di emozioni, la si vive molto difficilmente in un posto diverso dall'Expo. In più rimarranno anche tutta una serie di contatti, forse anche di amori, che si sono sviluppati, che si svilupperanno a seguito di questa esperienza, perché abbiamo dei gruppi di 60 volontari che sono molto coesi, che lavorano insieme, che condividono anche non solo l'esperienza, ma anche vivono nello stesso resident. Quindi c'è proprio un senso di comunanza che consentirà loro anche di capire meglio, di eliminare quelli che sono i pregiudizi che uno ha nei confronti di altre culture. Quindi l'Europa si costruisce dal basso, secondo me, non con grandi strategie. Lo insegnano anche i padri fondatori, è sempre stato costruito su dei mattoni concreti. Erasmus Student Network Italia, il padiglione UE, il CSV domani organizzeranno questa giornata in cui verranno promosse anche le attività di mobilità e di volontariato al di fuori di Expo. Ci sarà una lunga parata, oltre 1000 ragazze appunto che sfileranno questo abbraccio simbolico all'albero della vita. Karate, non so se prima ha sentito le parole delle nostre studentesse, no? Che dicono, loro hanno 20 anni, credono molto in questa Europa, Europa che toccano nella loro quotidianità in Erasmus, quindi c'è speranza. Cosa succede poi? Chi è che va a cancellare questa speranza? Perché se a 20 anni si ha la possibilità di vivere all'Europa e ci si crede, poi invece si perde questo sentimento? Ma io credo che spesso vengono addossati all'Europa delle colpe che non sono l'Europa, cioè molto spesso è facile per i politici locali o degli stati membri di mettere sull'Europa delle responsabilità che non ha, però anche da parte dell'Europa c'è molto spesso anche un'incapacità di decisione e anche una forte burocrazia, quindi credo che le colpe siano un po' da tutte le parti. Quindi se da un lato noi dobbiamo anche cercare di snellire quello che è il nostro processo decisionale, eliminare la burocrazia, ma soprattutto andare a parlare con i giovani, come credo che l'esempio dello scolo stia dimostrando, e questo lo dico anche per i miei colleghi, perché è un esempio che io poi porterò in commissione. Dall'altra parte bisogna anche che i politici abbiano un senso di consapevolezza che attaccare l'Europa, attaccare gli altri stati, alla fine diciamo porta solamente dei danni, perché senza Europa non si va da nessuna parte. Quindi magari uno può avere un vantaggio di visibilità e politico nel breve termine, però nel lungo termine non c'è altra strategia, con dei continenti che si stanno sviluppando, l'Europa che poi fondamentalmente, pur essendo ancora il mercato economico più importante, è una piccola parte della popolazione, sta diminuendo anche l'importanza sullo scenario internazionale. Quindi dobbiamo reagire, dobbiamo fare più ricerche, dobbiamo stimolare appunto lo studio, l'educazione, e io credo che l'esempio di Erasmus sia un esempio che ci viene invidiato in moltissimi paesi del mondo. Quindi ho parlato appunto con il responsabile della Corea, che anche loro vorrebbero fare un programma del genere, quindi è un esempio che noi portiamo come un esempio di successo dell'Europa, anzi spesso è più conosciuto della stessa Commissione Europea. Grazie davvero Karate, ricordiamo europa.eu/expo2015/it oppure esnitalia.org per conoscere l'intero programma della giornata di domani. Buon lavoro e grazie. Grazie molto a voi, era da aspettare. Grazie. Matilde Clementine, a proposito di Milano e di Expo, è una città che vi ha accolto bene nel vostro Erasmus, Matilde? Sì, quindi sono qui da 3 settimane e ogni giorno vedo un po' più della città e mi piace molto, sì. E l'Expo, infatti, sono andata un po' a vederla e abbiamo una fortuna grande di poter vedere questo una volta nella vita, quindi... Te la sei giocata, ma in verità Clementina invece credo abbia un record nazionale, anzi europeo a questo punto, perché tu sei stata un giorno ad Expo, vero? Sì, sì, dal mattino alla sera. E sei riuscita a vedere quanti padiglioni? 19. 19. Come hai fatto? Ci sono file da ore e ore. Cioè, il nostro Carmelo è stato ad Expo giorni, sei riuscita a vedere almeno un padiglione? Hai fatto 7 ore di fila seduta e hai detto venite voi a vedere me, certo, col carrello. Col passeggiare, avevi il passeggino come scusa, bravo. Come hai fatto a entrare in così tanti padiglioni? Cammino molto veloce. Ok, perfetto. No, abbiamo fatto dei padiglioni che non sono molti... Non i più frequentati, sì, diciamo. Quindi okay. Per il Giappone era 4 ore, quindi no, ma ho fatto la Bulgaria, tutti i paesi dell'est. E... La Francia l'hai visto? Sì, la Francia sì. Ti sei sentita ben rappresentata dal tuo padiglione? Sì. E, soprattutto i padiglioni sono belli, ma ci sono troppi padiglioni che sono tipo come dei negozi e quindi è un po' peccato per questo, ma ci sono dei padiglioni tipo la Corea che è molto bello e che è un padiglione veramente di Expo universale, che è incredibile questo. Quindi insomma è stata, voi tra l'altro studiate comunicazione se non sbaglio, no, studiate comunicazione, moda? No, aspetta che sto facendo confusione, cosa studiate? Io studio comunicazione e traduzione. Ok, perfetto, e tu invece? Io sono più nelle relazioni internazionali. Vabbè, quindi insomma è un po' il vostro campo, quindi comunque lo promuovete, il vostro Expo, e domani vivrete questa giornata. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, prima 1 euro apposito e poi torniamo qua e torniamo con l'altra Europa, andremo a scoprire un bellissimo progetto europeo che si sta sviluppando in un piccolo borgo di 300 abitanti nel Salento. Andremo a scoprire invece questa settimana che ha un'altra sorpresa europea, perché è la settimana del coding, e poi andremo a scoprire il suono della felicità nelle nostre città. Europost-it. Your first Eures job. Siete in cerca di un'opportunità all'estero e non avete ancora compiuto 35 anni? Avete ancora pochi giorni per partecipare al bando europeo che incentiva la mobilità professionale e mira ad aiutare i giovani under 35 a trovare un posto di lavoro, un tirocinio o un apprendistato in un altro Stato membro dell'Unione Europea, in Norvegia o in Islanda. Your First Eures Job è aperto a giovani candidati e datori di lavoro che risiedono in uno dei 28 paesi europei. Per saperne di più e per inoltrare la vostra candidatura, visitate il sito ec.europa.eu/social. Nella sezione Politiche e Attività selezionate Finanziamenti e inviti a presentare proposte. Ma affrettatevi, c'è tempo fino al 16 ottobre. L'altra Europa. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go and knock on me so hard. It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, radio24.it, da dove potrete riascoltare e scaricare la puntata domani, dove potrete ritrovare tutti i nostri Europostit, ma tutto ciò lo potete vedere anche in diretta in tempo reale sulle nostre piattaforme digitali, quindi chiocciola RNET Plus R24 oppure il mio account personale chiocciola Federico Taddia, che vi invito oggi anche ad utilizzare se volete raccontarci in 140 40 calatri via Twitter la vostra esperienza Erasmus, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, oppure potete farlo via SMS al 349-238-6666. Con me in studio Matilde e Clementine, due ragazze, due studentesse francesi di Bordeaux che stanno vivendo da poche settimane il loro Erasmus qui a Milano e domani saranno protagoniste di questa giornata che vedrà tanti volontari europei, tanti studenti europei, appunto, tutti insieme ad Expo. Ma l'Europa è anche altro, l'Europa sono i piccoli progetti che ci piace scoprire e raccontare, come quello che andiamo a narrare ora, lo facciamo insieme a Eleonora Bianchi. Ciao Eleonora. Ciao, ciao a tutti, buon sabato. Allora, uno pensa all'Europa, pensa a Bruxelles, invece siamo a Tricase, 300 abitanti più o meno, se non erro. Siamo... Sì, Tricase Porto, Tricase ne ha un po' di più. Oh. Tricase Porto è la marina di Tricase. Ok, quindi siamo in provincia di Lecce ed è, nato, ed è nata questa startup finanziata anche nell'ambito di un progetto europeo chiamata Le Mamme del Borgo. Cosa vi siete inventate? Sì, le mamme del borgo, perché le protagoniste sono loro, sono le abitanti di questo piccolo borgo che si sono messe a cucinare per turisti, per visitatori che hanno voglia di assaggiare un po' quella che è la tradizione culinaria salentina. Uh-huh. E quindi ci siamo inventati questo ristorante diffuso all'interno del borgo, vendiamo dei ticket e il visitatore può venire da noi e girando di casa in casa si può assaggiare varie ricette cucinate chiaramente dalle mamme nelle proprie case. Quindi l'idea di base è questa: comunque le mamme cucinano durante il giorno per le proprie famiglie, e perché non fare qualche porzione in più e condividerla, esatto, con i turisti? L'idea è proprio venuta da questo, cioè la cucina è un'attività quotidiana delle mamme che sanno fare benissimo, che fanno sempre, poi tra l'altro è anche il cibo, la cucina, lo stare insieme è veramente molto sentito, e quindi perché non estendere questa qualità e questa tradizione a tutti quelli che hanno voglia di vivere un po' di autenticità anche in vacanza? Allora, ricordiamo un progetto Fooding e del MEDAB, che è l'incubatore incubatore mediterraneo per la creazione e il cambiamento di impresa, cofinanziato dal programma Interreg Italia Grecia. Eleonora, tu sei una milanese a Tricase, cosa ci fai lì? Sì, io mi sono trasferita qui, è il poi tuo Erasmus. Ho avuto la fortuna, no, io l'Erasmus lo feci in Spagna, addirittura. Ah, okay. Ormai 6 anni fa a Santiago di Compostela. Mm-hmm. Infatti invidio molto le ragazze, ci tornerai immediatamente in Erasmus. No, allora mi sono trasferita qui perché la vicinanza col mare doveva essere una prerogativa nella mia vita, ma a parte questo poi sono stata fortunatamente così accolta molto bene dalla comunità e mi hanno proposto di far parte di questo progetto che mi sembrava bellissimo. Io amo la cucina, ci lavoro, sono gastronoma, quindi ci ho lavorato anche mentre vivevo a Milano, e quindi ecco il perché. Mm-hmm. Foodingproject.org, questo è il sito della startup. Adesso immagino ci siano pochi turisti, quindi forse non c'è tanto lavoro. Sì, ma è stata una grande prova generale per la prossima stagione, credo, quest'estate. Bravissimo, noi quest'inverno lavoreremo a un calendario, stiamo creando il sito web e entro il 2016 ci piacerebbe mettere appunto il calendario delle cene che faremo nell'estate del 2016, quindi partiremo con molta probabilità a giugno e andremo avanti fino a settembre, perché purtroppo nella stagione autunnale, invernale è un po' pericoloso fare cene all'aperto. Certo, sì. L'invito, l'orario invita alla domanda proprio velocissimamente, qual è il piatto tipico di Tricase Porto? Allora, di Tricase Porto in realtà un piatto tipico salentino che a me piace molto è il lupurpo alla pignata, che è il polpo cucinato dentro la pignata, che è una bellissima pentola in terracotta, spesso e volentieri viene messa a cuocere nel camino per ore, quindi la carne è tenerissima, e magari se ci si aggiunge anche qualche patata è il massimo della vita. Perfetto. Vi invito tutti ad assaggiarlo a Tricase Porto, vi aspettiamo. Questo è l'altro Expo, esatto. Grazie, ciao, buon lavoro, grazie, in bocca al lupo. A voi. Ciao, ciao. Buona giornata. Europost-it. Stage al CERN di Ginevra. Ti piacerebbe fare un'esperienza di stage in un ambiente internazionale all'avanguardia nella ricerca? allora potresti essere interessato a uno dei programmi di tirocinio offerti dal CERN di Ginevra, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, uno dei maggiori centri scientifici al mondo. I compiti del tirocinante saranno di tipo amministrativo. L'opportunità è aperta a tutti gli studenti universitari di laurea triennale che vogliano intraprendere un'esperienza lavorativa dai 2 ai 12 mesi. Alcune tra le discipline e conoscenze esercitate nel corso dello stage saranno la traduzione, il lavoro di segreteria, la business administration, la logica, la legge, la finanza, la scienza della comunicazione, le PR e la psicologia. Le candidature dovranno essere inviate entro il 30 ottobre 2015 seguendo le istruzioni indicate dal sito jobs.web.cern.ch. Educare al problem solving, questo è un po' il cuore, questo è il sottotraccia che c'è nel concetto di programmazione su cui tanto si sta lavorando, perché le tecnologie funzionano se dietro c'è un pensiero, e questo pensiero può aiutare poi anche nella vita di tutti i giorni. E non a caso si è aperta proprio oggi, fino al 18 ottobre, la settimana europea della programmazione, la Europe Code Week. Ne parliamo con Alessandro Bogliolo, che è ambasciatore per l'Italia, ingegnere elettronico e coordinatore della Divisione Scienze e Tecnologia dell'Informazione al Dipartimento di Informatica dell'Università di Urbino. Ciao Alessandro, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. Allora, spieghiamo per l'ennesima volta, anche se è un concetto che fa fatica a passare, che cos'è il CODE, cosa si intende? Allora, devo premettere che l'hai anticipato benissimo, nel senso che hai iniziato non parlando di programmazione ma di ragionamento, ed è proprio qua la chiave, nel senso che coding e Europe Code Week non è qualcosa concepito, diciamo, solo per programmatori ma per tutti, nel senso che è innanzitutto una forma di pensiero ed una tecnologia, diciamo, o una nuova capacità che abilita nuove facoltà mentali o nuovi modi di ragionare in modo algoritmico, cioè di pensare a delle soluzioni complesse a dei problemi che siano direttamente poste in un modo che orienta alla soluzione vera, non soltanto all'intuizione. Mm-hmm. Quindi è una nuova forma di espressione, diciamo, un nuovo linguaggio acquisendo il quale noi non soltanto siamo in grado di fare nuove cose, ma anche di concepirle in modo più compiuto. Spaventa chi? Spaventa i pedagogisti tradizionali? Spaventa chi non è avvezzo con le nuove tecnologie? Chi è che ha paura del coding? Ma secondo me spaventa, come tutto, chi non lo conosce, nel senso che la chiave di Europe Code Week è il divertimento. Per cui fortunatamente adesso ci sono tante tecniche, tanti metodi che sono stati sviluppati per insegnare, diciamo pure, il coding in un modo totalmente intuitivo, che rende immediatamente produttivi, parlo di ragazzi e di giovanissimi, ma in realtà lo si può fare a qualunque età, comunque rende immediatamente produttivi i principianti. E il coding ha di bello che ti consente di far fare delle cose a degli oggetti, o che siano fisici o che siano virtuali, e ne vedi immediatamente i risultati. Quindi è facile, come puoi immaginare, concepire su questo delle forme di gioco. E giocando in realtà si impara, questo non è vero solo nel coding, è vero nella vita. Nel coding lo si mette in pratica in pochissimo tempo, quindi Europe Code Week consente di fare vere esperienze di coding senza avere nessuna preparazione iniziale o ottenendo immediatamente dei risultati che quindi sono appaganti, diciamo, certo, in qualche modo. E codeweek.eu il sito generale, codeweek.it il sito italiano. La Commissione Europea tra l'altro ha lanciato anche la Code Week for Hall Challenge, che è una sorta di riconoscimento di eccellenza alle scuole che riusciranno a coinvolgere il maggior numero di bambini. Ci sono 1000 attività in tutta Italia. Il programma dettagliato lo troviamo su questo sito o vuoi darci altre coordinate? Sì, le coordinate, guarda, sono queste. Hai fatto benissimo a menzionare le scuole, perché di attività di coding, grazie ai volontari, se ne fanno tantissime, ma le attività che si fanno al di fuori delle scuole finiscono per essere sempre frequentate da persone che in qualche modo sono già motivate. In realtà il coding, inteso come pensiero computazionale, è una, diciamo, disciplina di base o qualcosa che dovrebbe essere un patrimonio comune, e solo le scuole possono raggiungere questo obiettivo. Quindi per questo quest'anno a livello europeo abbiamo proprio deciso di premiare, e sarà la Commissione Europea a rilasciare dei certificati di merito alle scuole che in qualche modo riusciranno a coinvolgere, diciamo tra virgolette, tutti i loro alunni, simbolicamente più della metà. Che vuol dire comunque non aver fatto semplicemente un dopo scuola, per intenderci. Assolutamente. Grazie davvero Alessandro, in bocca al lupo e buona settimana. Grazie mille, buon coding a tutti. Ci fermiamo, un Europostit, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Concorso Juvenes Translatores. Siete studenti di scuola superiore? Amate le lingue straniere? Anche quest'anno avrete la possibilità di iscrivere il vostro istituto al concorso annuale di traduzione Juvenes Translatores, che si svolgerà il 26 novembre in tutte le scuole selezionate. Verranno ammesse al concorso 751 scuole di tutti i paesi dell'Unione Europea. Durante la prova dovrete tradurre un testo da una lingua a vostra scelta tra le 24 ufficiali dell'Unione verso una delle 23 lingue rimanenti. Pensate che avete ben 552 combinazioni linguistiche possibili. Per l'edizione di quest'anno, i testi da tradurre avranno come tema l'anno europeo per lo sviluppo. Il ruolo di correttori spetterà ai traduttori della Commissione Europea, che sceglieranno la traduzione migliore per ciascuno Stato membro. I vincitori saranno invitati a Bruxelles per partecipare alla cerimonia di premiazione. Per iscrivervi, visitate il sito ufficiale del concorso ec.europa.eu/translatores. Avete tempo fino al 20 ottobre. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'altra Europa, e lo abbiamo fatto un paio di settimane fa dal punto di vista economico. Abbiamo parlato di Europa e felicità, oggi parliamo ancora di felicità ma da un altro punto di vista. Milano intanto vi è sembrata una città felice, Matilde, Clementine, com'è stato il primo impatto? Matilde? Sì, per il momento si vede soltanto la felicità perché non vediamo ancora le brutte abitudini dell'inverno con i trasporti che non funzionano, tutto questo. Per il momento è una città bellissima e mi sento bene in questa città. Ma l'avevi studiata prima di arrivare? Cioè, sapevi già com'era, sapevi quali erano i punti di forza, i punti deboli, dove andare? No. Sapevo soltanto come fare il mio appartamento fino all'università. Perfetto, quindi proprio per la sopravvivenza. Allora, questo è difficile. Clementina, è una città felice per te? Sì, per il momento ho visto molti turisti e penso che fino a settembre, insomma, dopo l'Expo. Ormai siete ancora in questa lunga vacanza che vi accompagnerà fino a Natale, sì. Poi dopo Natale c'è festa, quindi anno nuovo, finalmente ricomincia il vostro anno. Ma parliamo di felicità, che è un progetto che si è dato come obiettivo quello di misurare e sondare la felicità delle città attraverso i suoni. È stato ideato dal Goethe Institute Italian. Con noi c'è Maria Carmen Morese, direttrice del Goethe di Napoli. Buongiorno Maria Carmen. Buongiorno, hallo. Come andiamo? Tutto bene, tutto bene. Si può misurare la felicità di una città dai suoni? Ma questo lo vedremo, non lo sappiamo, è una scoperta che faremo, uh-huh. Però è una scoperta bellissima perché stiamo appunto analizzando l'Italia e scoprendo tante cose belle che ci dicono i cittadini. E lo fate allora, il tutto è ideato da un duo artistico, il Liquid Penguin, non so se ho detto bene, se gli ho, ok, che stanno girando l'Italia con, questa è una parola difficile per me, il Glus Container, giusto? Sì, giusto, giusto. Che è un contenitore di felicità, di cosa si tratta? Allora, si tratta di una sorta di confessionale, immaginiamoci una cabina per fare le fototessere, sì. E c'è però anche la tendina, quindi si entra dentro e ogni persona che vuole partecipare a questo gioco, a questo progetto con noi, deve rispondere alla domanda che cos'è per lei o per lui la felicità. E se chiudendo gli occhi pensa a un luogo della propria città che lo rende felice, qual è il suono di questo luogo? E quindi abbiamo avuto delle risposte bellissime, molti ci hanno parlato del mare, a Roma ci hanno parlato dell'acqua che gorgoglia a lungo Tevere. Tra l'altro parlare di felicità adesso a Roma è impegnativo, perché insomma non è proprio il momento migliore. Abbiamo forse qualcuno di questi suoni, di queste confessioni da potervi farvi ascoltare. Per me la felicità è leggere, ma anche essere in compagnia con gli amici. Il suono degli alberi di Lungotevere quando ci cammini, quando ci passeggi. L'orto botanico, perché c'è il suono dei pappagalli verdi. Sono su tutti gli alberi, però è un canto, è bellissimo, perché è inaspettato. E quasi non si vedono perché sono verdi come gli alberi, quindi uno guarda, poi forse li vede, ma prima li sente. Guarda, c'è un punto qui che è bellissimo, a Villa Panfili, un passaggio segreto che si arriva direttamente qui ed è bellissimo. C'è proprio il silenzio, perché felice, perché ci passeggiavo sempre con il mio bambino piccolo e riuscivo a dormire beatamente in estate, quindi era meraviglioso, che non piangeva più, quindi era la pace dei sensi. Le città, i suoni, la felicità, la gioia, l'enjoy che ci diceva prima Clementina, che ritorna attraverso i sensi. Maria, sta andando bene il progetto, mi pare? Sì, il progetto sta andando molto bene. Gli artisti sono stati a Roma, a Napoli, adesso saranno la penultima settimana di ottobre a partire dal 23 a Trieste. E fino al 30 ottobre loro hanno anche un'idea particolare per Trieste, parleranno delle lingue, perché Trieste è crocevia, quindi della diversità, delle differenze che sono la nostra ricchezza. E poi dopo il 31 andranno a Palermo e staranno lì fino al 7 novembre. Perfetto, appunto per chiudere il progetto e sì. Puoi darci una fotografia, un'istantanea. Sì, volevo aggiungere, prego, che si tratta di alla fine del progetto tutto il materiale, che sono migliaia di ore di registrazione, confluiranno in uno sceneggiato radiofonico che verrà realizzato da due emittenti radiofoniche tedesche, cioè Deutschland Radio e Saarländischer Rundfunk. Ok, quindi magari poi ci ritroveremo per ascoltare insieme un estratto di questo sceneggiato. Grazie davvero Maria Carmen e buon lavoro. Buon lavoro a voi, ciao. Goethe.de per tutte le informazioni. Chiude qua questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Claudia Schiattone in assistenza, insieme a Carmelo Lauricella che ha giocato coi tasti. La puntata è stata scritta insieme a Miriam Lucchetti e Silvia Righini. Ringrazio Matilde e Clementine per essere state qua. Grazie. Con noi. Grazie a lei. Quindi domani grande festa all'Expo. La giornata di oggi invece cosa prevede? Mi piace curiosare nella vita degli altri, in particolare nella vita degli Erasmus. Cosa si fa a Milano un sabato pomeriggio? Siamo delle ragazze francese, quindi andiamo a fare un po' di shopping. Ok, quindi è proprio ligie alla regola e allo stereotipo. Brave. Esatto. Bocca al lupo per il vostro anno milanese. Grazie davvero. Grazie. Radio24.it per poter riascoltare e scaricare la puntata da lunedì e lì ritrovare appunto le voci dei nostri ospiti, link relativi agli argomenti che abbiamo toccato. Se invece volete contattarci, l'indirizzo mail è l'altraeuropa@radio24.it. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.